Funtime Radio presenta Ludico Forum. Ah, belli di casa, buonasera a tutti, benvenuti qui sul canale di Dietrologia Videoludica, ma non soltanto, ma adesso ve lo diciamo, benvenuti su questa nuova puntata dove parleremo di videogiochi, puntata che poi andrà a finire nel feed del podcast di Ludico Forum. Allora ragazzi, i nostri potenti mezzi a disposizione questa sera ci permettono di fare tante ospitate, tanta gente, tanta bella gente, però prima che iniziamo con questa nuova puntata, io ci tengo a presentare appunto le persone che sono qui con me. In particolare iniziamo per cavalleria da Pixel Deb. Ciao Pixel Deb. Buonasera a tutti, buonasera, un piacere essere di qui con voi. Presenta il tuo canale. Sì, allora, sono Pixel Deb, porto soprattutto avventure grafiche, vari gameplay, insomma, sia in live che in video, anche visual novel, ma poi abbiamo giocato anche vari generi tipo BioShock, Far Cry, insomma, dipende un po' da come mi gira, però tendenzialmente avventure grafiche. Esatto, quindi Deborah c'ha un canale di videogiochi, andate, cercatelo ovviamente, Pixel Deb, naturalmente non è difficile se lo diciamo in continuazione, e cercatelo. Iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, mettete like, condividete, aiutate il canale a crescere che è arrivata al numero incredibile di 866. E vai, fra un po' 1000. Dai, 1000 si avvicina. 1000 suppliata per tutti, insomma. Ok, è la seconda volta invece di seguito, addirittura incredibile, la seconda volta di seguito addirittura Giuseppe Pugliese. Buonasera a tutti, salve. Allora, anche tu presentati. Sì, sì, molto semplicemente, sono Giuseppe. Perché faccio... molto semplicemente? Non è né molto né semplicemente. Allora, vai dritto. Riassumiamo molto velocemente. Allora, faccio molto velocemente, molto... con lui la vedo dura. E basta. Allora, molto velocemente, ripetiamo. Sono Giuseppe Pugliese, faccio lo sviluppatore web come lavoro e nel tempo libero faccio tante altre cose, tra cui appunto videogiocare soprattutto, ma mettere le mani anche a livello di hardware, per cui configurazioni, server NAS, storage system, eccetera. Infatti, la puntata della volta scorsa, proprio per questo, cioè nel senso, la puntata della volta scorsa abbiamo parlato proprio di hardware, quindi dei PC da gaming. Tanto salutiamo la copiosa gente, già vedo in chat, tra l'altro diversi dal canale proprio di Pixel Deb, e con noi c'è anche Alex Raccuglia, regista, sviluppatore, grafico, chi più ne ha più ne metta. Cioè faccio un sacco di cose e le faccio tutte male. Male, esatto, quella la cosa. E podcaster pure. La serie. Come stai Alex? Bene, sono arrivato leggermente in ritardo perché ho dovuto cambiare un pannolino al volo. Sei arrivato giusto giusto, poi questa cosa della paternità ti dona tantissimo. Sì, sì. E quindi insomma noi poi veniamo a ottobre a salutare e c'è insomma un uomo che è stato con noi sin dalla notte dei tempi, insomma soprattutto quando sono nati i podcast dei videogiochi dalla nostra parte, ossia Marco Gualdi, il distruggitore anche detto. Sì, scusate, anche io ho dovuto cambiare il pannolino, però era il mio. Però bisogna cambiarlo ogni tanto. Per una questione proprio igienica, diciamo. Per forza. Di salute pure, di salute. Allora, rispondo a un paio di cose. Cioè, c'è un utente nei gruppi, anche privatamente, mi hanno chiesto perché recuperare il canale di Dietrologia Videoludica. Allora, il canale di Dietrologia Videoludica è, diciamo, noi siamo molto affezionati al vecchio podcast di Dietrologia Videoludica perché forse è stato il momento più alto, no? Da un certo punto di vista, vero Alex? Tu che poi hai fatto pure la sigla, Dietrologia Videoludica. Quante cose brutte che ho fatto nella vita. Come dice René Ferretti, mamma mia quanta merda che abbiamo fatto. Ed è per questo che noi abbiamo deciso di riprendere un canale che c'era, stava lì, e alla fine invece di ricreare nuove situazioni, mischiare, continuare a fare guazzabugli come facciamo sempre, abbiamo deciso insomma di riprenderlo in mano, anche se poi le puntate, come abbiamo detto, vanno è bruttissima, però a riprenderlo in mano, il canale sempre naturalmente. E poi i podcast vanno su Ludico Forum, ma questo oramai già l'avete capito. Voglio invece ringraziare tutti coloro che durante queste settimane stanno sostenendo in maniera attiva, perché diciamoci la verità, sia moralmente che anche materialmente Runtime Radio, per tutta questa fase di transizione molto complicata, in questa fase di trattativa con Spreaker che sta andando male naturalmente, ma noi ce ne fottiamo e andremo avanti per la nostra strada. Quindi grazie a tutti, e detto questo, insomma, io direi che possiamo iniziare con questa puntata che è dedicata, diciamo, al videogioco che uno creerebbe, cioè il videogioco che ci piacerebbe creare, o se noi fossimo sviluppatori, ideatori, designer, quale tipo di gioco ci piacerebbe realizzare. Questo sembra un po' una cosa un po' una banale come tipo di tema, ma in realtà, siccome che qui ci sono tante personalità diverse, con, diciamo, tante estrazioni anche diverse, per esempio Alex chiaramente è più votato verso l'aspetto tecnico video, mentre Pugliese è più magari hardcore gamer, Gualdi è un po' così, mentre Gualdi è un po' così, un po' così, mentre che cos'è un po' così? È un po' così, è un po' così, Gualdi è un po' così, così. Mentre Debora, se lo conosci effettivamente, Gualdi è veramente un po' così. Se tu ci pensi, come lo descriveresti, Gualdi è un po' così. E invece Debora magari è più dedicata, insomma, all'aspetto magari narrativo, a volte anche introspettivo, psicologico di quelle che sono le storie, spesso anche autoriali, insomma, che capitano nel mondo del videogioco. Però prima di iniziare in questa maniera, io farei un giro con tutti quanti, partendo da Debora, proprio chiedendovi qual è il genere che voi considerate di riferimento per voi, cioè nel senso, sì, ok, magari avete giocate a tutto quanto, però diciamo c'è un genere magari di riferimento e perché? Partiamo da Debora. Allora, guarda, vabbè, chi mi segue, insomma, lo sa benissimo che le avventure grafiche sono il mio grande amore, le avventure in generale comunque. Diciamo, il punto e clicca è nel mio cuore da sempre, perché ho iniziato a giocare con il primo Monkey Island quando avevo 5 anni, quindi da lì è stato un grandissimo amore per le avventure grafiche. Ed è alla fine il genere che faccio di più in assoluto, però mi piacciono anche le altre avventure, come abbiamo visto insieme io e te alle serate, sì, sì, dedicate dal 2010 al 2020, diviso anche in due avventure parti, insomma, alla Heavy Rain, insomma, queste qui, alla Walking Dead, quindi queste quasi film interattivi alla fine, no? Quindi dove fai alcune scelte che cambiano poi la storia, mi piacciono le visual novel, comunque tutto ciò che ha un racconto, quindi un modo di raccontare. Ho giocato a Virginia, come avevi suggerito te, che quello è veramente una sorta di mini film, no? Quindi tutto ciò che racconta una storia è la cosa che mi piace di più in assoluto. Mi piace risolvere i vari enigmi, eccetera eccetera, quindi sicuramente quello è il genere che preferisco. Però non gioco unicamente a quello, gioco un po' a tutto, tranne sportivi, però quelli vecchi sì, cioè nel senso i vecchi retro games sportivi, quindi che ne so, un Power Spikes, quello di pallavolo, non so se ci avete presente. Capito, forse, track and field, insomma, cioè, queste cose sportive vecchie che mi piacciono tantissimo. E, però ecco, gioco agli FPS, gioco ai gestionali, gioco ai simulatori, mi diverto un sacco pure con i simulatori, gioco ai giochi action, un po' tutto onestamente, tranne, ecco, ripeto, anche i Souls-like non riesco a giocarli perché io ho pochissima pazienza, quindi ripetere sempre lo stesso pezzo non fa per me. Anche io dico. E anche perché sono un po' pippa, quindi muoio come niente, dico no, vabbè, ce la posso fare. Dopo due volte che non ce l'ho fatta, dico no, ma che mo fa? E quindi, tranne, ecco, i Souls-like, Metroidvania pure non mi fanno impazzire, però per il resto gioco un po' a tutto, adoro anche i giochi di ruolo, quindi alla Skyrim, alla The Witcher, che sono tra i miei giochi preferiti in assoluto. Mi piacciono anche i JRPG tantissimo, i Final Fantasy X è il mio preferito, Lufia 2 Rise of the Sinistras, che è uno vecchissimo che adoro tanto, adesso sto recuperando il primo Breath of Fire che mi sta piacendo, quindi onestamente, ripeto, gioco un po' a tutto. Ho giocato tantissimo a Counter Strike Online, me ci sono chiusa proprio. Quindi dipende, poi dipende anche un po' dal periodo, onestamente. Mi piacciono anche i libri game, insomma, un po' tutto, onestamente. Vabbè, comunque, se tu dovessi considerare, al di là ovviamente del gusto generale, no, e comunque magari del periodo, se tu dovessi considerare comunque il tuo genere di riferimento è più comunque la narrativa, il puzzle solving, e quindi tutte queste cose qua. Sì. Ok. Giuseppe, allora, diciamo che effettivamente quando parte con allora è finita. allora farò un sonnellino io entra. No. Sarò molto striminzito, proprio perché appunto siamo più persone, quindi bisogna lasciar parlare tutti, giustamente. Sono democratico da questo punto di vista. Meno male. Allora, Grazie. Allora, figurati. Allora, per quanto riguarda i videogiochi, allora, a memoria, il primo videogame a cui abbia mai messo le mani seriamente è stato il primo Max Payne, quindi un FPS a tutti gli effetti, unito a StarCraft, quindi una cosa totalmente differente. Parliamo di strategia in tempo reale. Sì. Per quanto riguarda retro gaming, sono molto ignorante, nel senso che, a parte, diciamo, la mia generazione, cioè quella che va dal 98 a salire in su, ok, ho nozioni. Prima li vedo più come test biblici, nel senso che sono Monkey Island, conosco appunto tutta la situazione di retro gaming, ovviamente per accenni, ma non ho mai seriamente giocato, e per questo molte persone mi vorranno male, ma ho deciso di basarmi appunto anche come gusto soprattutto su quello che è il nuovo secolo, detto tra virgolette. Per quanto riguarda le tipologie di videogiochi, appunto, quindi ma anche io sono abbastanza agnostico da questo punto di vista, nel senso che gioco di tutto. Le uniche cose che mi fanno venire il prurito sono sostanzialmente come posso dire, i giochi dove c'è un'interazione molto dilatata, troppo dilatata. Quindi avventure grafiche non ne ho mai provate, però so già che non mi gradirebbero granché. Generi come, che ti devo dire, appunto, ecco, quelli editi da Deborah, quindi vabbè, come... giochi narrativi in generale, sì, molto narrativi, molto lunghi. Tu vuoi sparare, ma più che sparare, il problema lo sai qual è? Il problema del supereroe, cioè, nel senso, mi piace essere personaggio attivo nella narrazione. Quindi effettivamente questi giochi che comunque hai una componente molto preponderante comunque la narrativa dilatata non mi piace. Cioè, nel senso, avere a che fare con qualcosa che puoi toccare con mano. Ecco, per esempio, The Witcher a me è un gioco che adoro, che sto rigiocando nella sua versione next gen, che è veramente migliorata tantissimo. The Witcher, parli del 2 e il 3? Il 3, The Witcher 3. Ho in libreria, ho una libreria di Steam di 688 titoli in questo momento, ho un recuperone pazzesco. Perché effettivamente il tempo è poco e la papera non galleggia, come si suol dire, quindi cerco di recuperare il più possibile con i giusti tempi, ovviamente, senza rushare, perché a me una cosa che pure mi dà fastidio è rushare. Quindi The Witcher 3, Fallout, veramente di tutto. Però tranne quei due o tre generi, gli sportivi anche a me non mi piacciono per nulla, tranne questi effettivamente gioco un po' di tutto, okay. E mi faccio piacere un po' di tutto. Ok. Gualdi? Allora, possiamo dire quello che non gioco, forse facciamo prima. Fai come te pare, ma no, ma non è... Allora, non quello che giochi, è quale tu consideri essere più vicino alle tue corde, quindi il tuo genere di riferimento. Poi è chiaro che tu giochi tutto, insomma. Posso dirti quelli che non gioco. Vabbè, fai quello che cazzo ti pare. Va bene. Facciamo prima. Va bene, va bene. Io gioco un po' di tutto, però diciamo quelli dove proprio non riesco ad approcciarmi sono... quelli sportivi pure io, perché non basta. Una volta, beh, però a FIFA ci giocavi con me, dai, ogni tanto. Cioè, giocavo anche a PES, facevo proprio le Master League anni. Poi sono rotto al cazzo. A un certo punto cresci e non credi più a Babbo Natale. A un certo punto invecchi, è un po' diverso. No, mai. Non si invecchia mai, no. Ricordati. Si muore solo, si cresce e poi si muore. È morto, com'è? Incredibile. È tanto morto giovane. Di crescita, infatti. Esatto. E per quelli, poi, allora, gli FPS... dipende dalle storie, comunque sono, diciamo, quelli che mi attraggono più, quelli che hanno comunque una trama. Una trama decente che ti fa entrare praticamente nella storia, dove però anche ti permettono di perderti di tanto in tanto e di farti i bene amati cavoli tuoi. Quindi comunque i giochi d'azione fondamentalmente. Però ecco, quelli che mi piacciono di più normalmente sono in terza persona, e quelli dove c'è un po' di azione, poi che siano RPG, che siano giochi di sparatutto, di avventura, poco cambia, dipende da quanto sono poi intriganti le storie. Ok, e vabbè, poi c'è quello che gioca meno di tutti in assoluto, però è stato anche un videogiocatore, cioè nel senso che comunque... Ma lui gioca in un'altra maniera, cioè effettivamente il far funzionare il codice è anche quello, è videogiocare. Esatto, anche cambiare il pannolino. Bestemmi di più, però effettivamente anche quello secondo me è videogiocare. Comunque Alex, tu che sei stato comunque... diciamo, mettiamoci anche l'aspetto sia ludico... che dal programmatore, no? Cioè, comunque tu hai sempre un po' smanettato, quindi a te è sempre piaciuto, insomma, tutto sommato. Allora, se ci ho pensato tanto alla risposta a quella domanda, perché nonostante il mio gioco preferito, lo sapete tutti qual è, Elite. Elite, Credo che il genere che più potrebbe confacermi è quello, non so come si chiama, quello di Parasite Eve, che credo che sia quella sorta di film interattivo. Adesso sono quelle robe alla David Cage, no, probabilmente. Però Parasite Eve era... Era un, giusto? Sì, era più no, Final Fantasy. Sì, era diciamo che era una via di mezzo tra Resident Evil e Final Fantasy, poi, fondamentalmente. No, era più vicino a Final Fantasy, credo. Perché c'aveva le meccaniche del combattimento a turno. No, ok, Final Fantasy 7 devo dire che potrebbe essere una cosa che rigiocherei adesso in questo momento e che sicuramente non farei, perché, però devo dire che le cose che gioco adesso sono delle gamification che o mi autoimpongo, tipo quando andavo in bicicletta. Spero di riuscire a tornarci quando mio figlio compierà un anno, battere i miei tempi, fare di meglio, oppure il gioco più divertente che faccio in questi giorni è controllare l'applicazione in cui conto i soldi che faccio con le mie app, no, vedere se riesco a fare meglio del giorno precedente. Bravo. No, lo dico perché così si fa. Giovedì scorso è uscita la mia app più importante di sempre, sta andando bene, perché sono molto euforico. Bravo. Euforico. Sono euforico. Parlaci della tua app. Citala, poi citala almeno. Transcriber è un'applicazione che fa la trascrizione dei video per poi fare sottotitoli dei filmati. Ok, poi, e altre cose. Poi, ragazzi, a fine puntata parleremo un po' di ChatGPT. E soprattutto potrebbe avere degli easter egg dentro. Quindi compratela tutti quanti in modo che riusciate a trovare gli easter egg. Non lo so. C'è una password di 32 caratteri completamente casuale. Che se la beccate dentro, fate gli easter egg. Alex, in realtà ci ho messo il clister egg. Esatto, un clister per me, perché vabbè, comunque tornando alla bomba un attimo al tema, insomma, Alex, comunque al di là del fatto che è moda gamification, la giovigazione è uguale, cioè, tipo l'ictus, vabbè, però insomma in generale tu comunque ce l'hai avuto un genere di riferimento, sì, no? Sì, certo, JRPG probabilmente la potrebbe essere la cosa che più hai avuto, hai avuto, ok, perfetto. E però vi è mai venuto in mente, in generale, poi partiamo un po', insomma, ritorniamo a bomba da Debola e rifacciamo poi il giro esattamente come prima, magari di aver pensato nella vostra vita, dice, ma se io comunque come lo farei io un videogioco? Cioè, intanto rispondete a sta domanda, cioè nel senso, poi andavo magari un po' in più nel dettaglio, cioè ci avete mai pensato, Debola? Sì, no, a volte mi è capitato di... Anni fa volevo fare un JRPG, no? Quando andava tanto a farli con RPG Maker. Ma va ancora pure oggi. E quindi una volta l'ho scaricato e così, insomma, cioè proprio randomico avevo fatto sto pupazzetto che con queste due stanze tristissime che dovevo riuscire a capire come farlo non sbattere alla sedia, insomma, mi sono piccata. Anche perché ovviamente ho fatto così col cuore, né, che mi sono messa a leggere. E cioè, quindi diciamo che volevo provare a fare sta è cosa. È così che si impara, Era un periodo in cui giocavo sempre a Lufia 2, a Chrono Trigger, eccetera, eccetera. E quindi dico, no, basta, voglio provare pure a fare sta cosa, dato che va tanto. Però de base ho provato così e non era venuto niente. Però poteva essere divertente. Tante volte mi è capitato di, che ne so, magari sto in macchina con un ragazzo mio, parliamo di varie cavolate, e dico, però salutiamo Gabriele, sarebbe figo. Grazie. Sarebbe figo, insomma, faccio un videogioco di sta cosa, sarebbe gagliardo, questo qui renderebbe bene. A volte guardo qualche film e penso, però qua ci starebbe proprio bene una bella avventura grafica, tipo, io vorrei tantissimo l'avventura grafica di Twin Peaks. Io voglio l'avventura grafica di Twin Peaks tantissimo, e quindi ogni volta penso, madonna, se la sapessi fa, la farei io. Guarda, capito, però possiamo dire, caro Marco Gualdi, che non è un'avventura grafica, però Deadly Premonition un pochino ci si avvicina a Twin Peaks, no? L'hanno già fatto. Esatto. Pensavo parlassi di Monte Rotondo. A parte quello, vabbè. Non è un gioco. Quello non è. A me è piaciuto tanto Deadly Premonition, però sì, ne ho riparlato proprio oggi su Telegram. Ma pensa te. Io mi sono divertito un sacco a giocarci. No, vabbè, sì, sì, no, ma... La storia non è anche così stupida come sembra. È che il gioco è uscito con tipo schifo, con 20 generazioni d'oro. Esatto. Però è divertente, dai. E poi c'ha tutta quella cosa molto Twin Peaks. Comunque la cosa che si avvicina di più a un videogioco Twin Peaks, quindi... È stato figo, è stato. Beh, figo. Sì, l'ispirazione lì è tanta, cioè veramente, anzi, diciamo, a ricche mani. E Giuseppe, invece, tu ci hai mai pensato? Allora, sì, risposta veloce, sì. Il problema è che, essendo appunto nel campo della programmazione, so i problemi. Per cui ti direi, se mi passi il, come posso dire, la, lo sviluppatore, bravissimo, a parte quello, l'ostacolo del budget, potrei dirti che più che fare un videogioco, a me piacerebbe lavorare su, su un concetto di videogioco, con tutta una serie di, appunto, più che altro un concetto che poi venga sviluppato da chi di mestiere, perché per fortuna mi sento limitato, quindi, quindi tu pensi, ti guardi più come designer. Bravi, purtroppo esce fuori il lavoro che faccio. Vabbè, però, tu, però tu devi sempre considerare che, cioè, una puntata come questa è più un esercizio di fantasia. Mi trovi d'accordo. Cioè, non se tu lo faresti, cioè, nel senso, chiaramente nessuno di noi, penso, a parte te, Alex o Boghino, no? Cioè, penso che nessuno si metterebbe a fare un videogioco. Però, insomma, come esercizio di stile, cioè, no, di fantasia. Perciò ho detto, se mi passi la cosa del budget, cioè nel senso, okay, con budget praticamente tra virgolette illimitato, quindi possibilità di prendere, di fare Rockstar 2.0 effettivamente mi piacerebbe lavorare a un videogioco che è concettualmente, non so se voi lo conoscete, Spore, che è uno forse dei giochi probabilmente meno riusciti dal creatore di The Sims. Gualdi ci andava matto, Spore. Perfetto, io vorrei fare uno Spore come se Spore e non Meskai avessero avuto un bambino. Per farvi capire, cioè, quindi deforme, ovviamente, però uscirebbe abbastanza deforme, quindi un videogioco ovviamente sempre a tema spaziale, perché sono fissato con l'universo. Mi sono già pentito. Ecco, spero che me lo faccia, diciamo, Starfield, questa cosa. Però effettivamente utilizzare una cosa ancora più, tra virgolette, concettuale, ovvero fare un procedurale, cioè nel senso un qualcosa che è stato elaborato in, viene elaborato in procedurale, quindi tu hai schermata del gioco, ti selezioni il personaggio, gli dai un background della storia e poi, partendo appunto da un seed, ti genera il, appunto, le quest, le main quest. Ok, però scusa se ti interrompo, Giuseppe. Cioè, la prima domanda era se lo faresti. Tu già ce l'hai raccontato il gioco. È vero, è un processo, quindi okay, una cosa alla. Sì, comunque. Cioè, nel senso, a te, comunque, diciamo, idealmente, un po' come quando uno da bambino diceva voglio fare l'astronauta, mi piacerebbe fare un videogioco. Mi piace andare nello spazio. Ok, perfetto. Sì, Gualdi, sperando di non morirci. Gualdi, che è l'uomo con, diciamo, dotato di un incredibile bagaglio di fantasia. Assolutamente sì. Però di parla. Cosa devo dire? Sì o no? Oppure devo dire il gioco che no, devi dire sì o no, magari dice sì, ci ho pensato, perché magari quella volta in cui motivazione, peccato che mi mancano i miei fantastiglioni, i gozziglioni di dollari. Cioè, tu, per esempio, mentre giochi, ogni tanto ti viene in mente, no? Devi fare un gioco. Dice, guarda, io sto gioco così, quando avrebbero potuto fare tutto, esatto, quest'altra cosa. Tipo No Man's Sky, perché No Man's Sky, che l'avrei fatto accoppiare con Cyberpunk. Ah. No Man's Sky accoppiato con Cyberpunk e viene fuori un altro figlio deforme. Poi mi hanno detto che la prima release non funziona, manco l'installer, quindi No Man's Sky però 6 anni fa, ci ho detto, sì, ho detto la prima release non funziona, manco l'installer, cioè non lo puoi neanche installare il gioco. Ma di No Man's Sky? No, di questo figlio deforme, perché sapendo, okay, i problemi di No Man's Sky, con i bug, con i problemi, Cyberpunk tagliati per tagliuzzato, problemi, la gente non mi trova nei muri. È stato meno difficile fare la cosa, sì, del chat GPT, comunque. Non funziona manco l'installer, sostanzialmente. Alex? Allora, posto che fino a 3 anni fa ho lavorato a un paio di videogiochi veramente. Uno è stato il gioco che è uscito per Natale nel 2019, se non sbaglio 2018, per Poste Italiane, che ogni anno fanno un videogioco. Io ho collaborato alla parte grafica e alle animazioni e ho fatto... Non sapevo neanche che esistesse una cosa del genere, però... Sì, no, ma in realtà ogni anno Poste Italiane fa il suo giochino per bambini. Ti sei firmato come John Dawson, non mi E poi in realtà ho lavorato anche alla grafica di un gioco, di una sorta di gioco dell'oca aziendale, che viene utilizzato all'interno dell'azienda per fare team building. Insomma, detto questo, sì, esempi, ci ho pensato. Sì. Però se fosse il tema Squid Game, forse il gioco dell'oca Squid sì. Games. Vabbè, okay. Esatto. Anche Squirt Game. No, ragazzi, no. A parte che non stiamo solo sul canale nostro, quindi rispettiamo un attimo le policy di YouTube. Metto la modalità... Bravo, le modalità bravo, perfetto. Okay. Bambini svegli, poi c'è la modalità bambini a letto. Ok, allora devo essere sincero, mi piacerebbe, proprio se potessi sognare a mille. Tanto salutiamo Darth Fener che ci fa compagnia ogni tanto. Salute. Lo sento. Che Carlo Burigana, salutiamo. Ah, pure. Dove sta Carlo Burigana? Scusa, sta lì su, guarda, sta quasi per uscire. Sta qui, si fermerebbe Erminio Tone, bravissimo. Va bene, dai. Prego, scusate. No, mi piacerebbe lavorare con qualcosa di realtà aumentata, ma veramente con qualcosa che si potrà fare fra 5 anni, con degli occhiali che non pesano e che puoi portarti in giro per essere veramente all'interno di un mondo. Posto che a me il videogioco, come autore e come regista, ha sempre dato un po' di fastidio, come dire, perché così l'utente si può fare la sua storia e non c'è la parte autoriale. Adesso sono un pochettino più possibilista e mi piacerebbe fare qualcosa che possa essere visto un po' dappertutto e con un'interazione un po' più ricca, oppure anche che magari succede qualcosa però non sei obbligato a guardarlo attraverso il punto di vista di una telecamera virtuale, ma puoi veramente girarci attorno e vivertela così. Però questo è appunto, se possiamo sognare, sogniamo un Technicolor. Interessante. Vuole essere il nuovo Hideo Kojima, mi hanno detto. No, che poi tra l'altro io un po' pensando a quello che diceva Deborah prima, no? Sul fatto di dire, no, ieri ho visto quella situazione o quel film, no? A me mi succede per esempio con... grazie, lei è molto umana. Salutiamo mia moglie che è andata... L'hai trovato il cane? Pace. Ah, ci conoscete Valentina Pace, attrice un po' stazzona, non ce ne frega. Comunque, vabbè, è andata a cercare un cane, l'hai trovato il cane? No, niente, quindi è spacciato. Hai trovato Valentina Pace? Sì, quella l'ha trovata. No? Allora va bene così, dai. Il problema è che se esci per cani, stai sicuro che più di qualcuno lo trovi, soprattutto in giro. No, loro fanno ricerca molecolare. Vabbè, comunque da questo non è... Comunque, tornando a quello che dicevo prima con Deborah, cioè lei diceva, magari ho visto un film, ho visto una situazione. A me questo mi succedeva con i romanzi, cioè quando io leggevo un romanzo... Vabbè, in generale, spesso e volentieri, alcuni ho provato anche a trasporli magari come sceneggiatura, a volte ho fatto, insomma, diciamo, immaginato un certo tipo di trasposizione, però ecco, la cosa del videogioco a volte, anche se il mio genere di riferimento oggi, se io fossi, cioè nel senso intenzionato a fare un discorso magari di creazione di un videogioco, sarebbe proprio quello del film interattivo, proprio perché in realtà rappresenterebbe la sfida di 2 o 3 elementi che comunque hanno caratterizzato la mia vita in qualche maniera. E penso, insomma, anche magari con Alex, uno magari ci ha pensato tante volte, no? Per esempio, noi abbiamo visto, è una cazzata, ve lo dico, fa un po' ride come cosa, però te lo ricordi, Alex, c'era quel videogioco che si chiama Press X, oddio, com'era? To Not Die, Press X To Not Die, che non soltanto è un film in full motion video fatto ovviamente con i quick time event, ma fatto col culo, scusate il genere, cioè nel senso è fatto proprio male, ma volutamente fatto male, cioè è una cosa fatta con 30.000 lire, si sono messi lì 4 amici e ci hanno fatto il videogioco, che poi alla fine comunque in qualche maniera ha riscosso un certo tipo di successo tra virgolette nel contesto della nicchia che poteva essere, no? E tante volte ci abbiamo detto quello, diceva, ma perché, cioè nel senso, l'avremmo potuto fare 1000 volte anche noi una cosa del genere, no? E infatti poi abbiamo fatto il priore, quello il priore. Esatto. Però ecco, insomma, diciamo che al di là delle cose più scherzose, diciamo a volte quando leggevo un libro game oppure magari una cosa un po' più avanzata, però col libro game magari veniva anche meglio perché c'era già la diramazione, no? Lo sviluppo della cosa, quindi lì in realtà tu devi solo fare l'atto meno più pigro di trasporre, diciamo, tecnicamente in immagini quello che è. Ecco, questo sarebbe stato un po' il mio sogno, tant'è che, come sapete già da un po' di tempo, anche se sto andando molto a rilento, il mio lavoro in questo momento con Unreal Engine 5 di studio e di sviluppo sta proprio sulla base di riuscire a costruire un cortometraggio completamente creato all'interno dell'engine, quindi in CGI, proprio perché mi piacerebbe magari riuscire a portare un qualcosa di creativo all'interno di un contesto che fino adesso mi ha solo dato, no? Cioè nel senso, cioè ho solo preso io praticamente da quello del mondo dei videogiochi. Bene, quindi detto questo, partendo insomma da quello che è il genere di riferimento, appunto, insomma, immagino, partendo da Deborah, che il videogioco che tu inizieresti magari a ipotizzare, tanto gente che scrive in chat, dopo magari vi leggiamo, cioè abbiate pazienza, ma magari il gioco che tu inizieresti a sviluppare, che tipo di genere o che tipo di contaminazione dei generi potrebbe essere? Allora, io ho pensato e ho creato una storia addirittura nella mia mente e sarebbe una visual novel, quindi rimango sempre nel mio genere. E ovviamente, vabbè, devo dire anche di che parla? Aspetta. No, intanto circoscriviamo il genere. Dico solo che sarebbe una visual novel e, per chi mi conosce, ovviamente ci sarebbero tanti traumi. Beh, giustamente. Giustamente. Quindi vari problemi psicologici, dato che io sono appassionata di psicologia, e quindi affrontati in un determinato modo che racconterò dopo, però, a questo punto. Ok. E Giuseppe? Allora, io ero il genere. Sì, ero partito in quarta, te l'ho detto, cioè? Spaziale, in genere spaziale, quindi spaziale con elementi procedurali. Cari amici, scusate, mi è partito un video. Ok, va bene. Non cioè, è l'episodio 16 dell'host. No, però è partito un video da solo. Bene, tutto a posto. E scusa, quindi spaziale procedurale. Quindi insomma, tu dici un gioco alla Elite, alla No Man's Sky, alla Non Star Sky, Non Man's Sky con il fatto appunto di sporre, quindi di generare la razza principale del personaggio basandosi su tutti gli elementi procedurali. Perché la novità sarebbe nel farsi appunto un mazzo così, nel fare l'algoritmo di base, quindi il seed, e poi partire sul videogioco. Ok. Sarebbe un disastro, già lo so, però. È complicato che disastro, no? Disastro è una parola grossa, non è che. Diciamo che secondo io farei come ha fatto Deborah, cioè se io mi dovessi approcciare con un genere inizierei da una cosa semplice, da un processo di crescita, cioè nel senso sperimenterei la mia esperienza in una cosa che è più controllabile da un certo punto di vista, per poi andare, cioè costruire galassie, che penso sarebbe un po', cioè con tutti i limiti oggettivi, però tu giustamente l'hai premesso che tutto questo è un discorso facendo finta che uno avesse X infinito budget e Y infinito che team, poi insomma. Che poi ti ripeto, non tanto infinito budget, perché ricordiamo che il team di sviluppo di Hello Games, cioè quelli là, i produttori di No Man's Sky, erano in quattro diventati, vabbè, in ma quello è un altro discorso, ok, fatto. Però io ho utilizzato appunto questo approccio perché sono conscio dei limiti della programmazione e la cosa procedurale ti creerebbe tutta una serie di loop per rendere il tutto più semplice, ti semplifica appunto la parte dove so di essere una capra, cioè quindi proprio nel gestire i modelli, nell'organizzare eccetera eccetera, okay, eccetera. No, beh, quindi comunque consideriamo che i ragazzi dello Games, poi la Sony gli ha mandato la Yakuza dopo quel gioco, dopo ci siamo accorti io e Gualdi che eravamo 10 ore che stavamo a giocare a sto gioco e non vive da madre e succedevano sempre le stesse cose, diceva, ma guardi, ma qui non succede un cazzo. c'ha ragione, la prima release era assurda, terribile. Gualdi, invece tu che genere ti affideresti, cioè su cosa ti butteresti? Open world, perché io comunque c'ho i gozziglioni, c'ho un team di sviluppo, ciao team. Cioè, se è un team socio di quello di Giuseppe. Assolutamente, no, ma neanche di più. Sono ben pagati perché sono concorrenti, allora. Devono portare i fottuti risultati e quindi sono ben pagati. Un open world, sto ancora decidendo se farlo su fantasy o fantascientifico. E quando lo decidi, scusa? Ma adesso. Basta cambiare un pochino di assets alla fine. È vero, tu dici il contesto è quello, metti le spade a posto dei pistole laser e risolto. Guarda che sono i ragionamenti principali che hanno portato gli ultimi giochi, quelli usciti da non moltissimo, a fallire, proprio perché il ragionamento, guarda, di base di quelli che organizzano i soldi è proprio questo, cioè con la spada o con la pistola è la stessa cosa. Tanto sempre giochitti sono, uno le schiatta mori dall'altra parte, finito il gioco. E ci butterei dentro, anche lui dice dalla proceduralità, sì, però ci butterei dentro queste benemate intelligenze virtuali, sentite il rumore? ChatGPT. No, aspetta, intelligenze virtuali o intelligenze artificiali? Perché sono due cose. Artificiali, è partito un Mass Effect, è così. Che potrebbero dare, e li vedremo secondo me. Lì te può dare una mano a Alex, perché Alex oramai è diventato maestro dell'intelligenza artificiale. Insomma. Gli spicciano casa. Pure. No, lui insegna l'intelligenza artificiale, quindi è colpa sua. Se nel senso che se andate a ritroso di qualche puntata di Runtime by Night, c'è il sistema di Alex che diciamo riassume i podcast, che praticamente ha fatto il riassunto di una puntata e escono fuori delle cose deliranti, cioè una delle cose più divertenti. Ah, pensavo avessi tentato di ucciderlo, cosa che potrebbe non è una succedere. Bella pubblicità, però è stata fatta apposta, è stata fatta apposta naturalmente, certo. E non è una bella pubblicità, insomma, cioè, è una bella pubblicità. Fatto schifo. Alex, tu a quindi che open world, ok, un open world, dicevo, quindi con fantascientifico o fantasy a seconda di intelligenza artificiale che praticamente va a gestire le quest e che permette anche di interagire con i personaggi in tempo reale. Vabbè, questo oramai lo stanno già applicando, no? Esatto. Ma noi se che siamo un team di sviluppo contro milioni, contro comunque tu lo fai prima, ma da casaccio lo faccio prima di tutti, perché giustamente Bushnell che cosa diceva? Una cosa è avere l'idea, una cosa è commercializzarla, giustamente, no? Quindi cioè, tu sei il genio che ha inventato sta cosa, ma siccome io l'ho venduta per primo sono meglio da te, insomma, questo è un po'. Saluto il cane. È il mio, scusate. No, tra l'altro Waldi, ti do un suggerimento, dato che c'hai questo momento di difficoltà creativa tra fantasy e fantascienza, io li mischierei, ecco, diciamo, insomma. Ma l'ho già fatto Guerre Stellari, però fantasy, ma non solo, troppi ce ne stanno, insomma. Alex, il tuo genere al quale tu affideresti la tua creatività? Allora, tecnicamente forse un open world, e dal punto di vista dell'ambientazione mi piacerebbe fare qualcosa che ha radici sulla normalità e poi prende delle persone normali, qualsiasi, sbattute nel bel mezzo di qualcosa di completamente folle, che è la mia passami il termine, la mia costante dal punto di vista creativo. Se tu immagini Scar, fondamentalmente la storia di uno sfigato che si ritrova catapultato in un altro mondo, che è però un mondo che succede nello stesso mondo nostro, è qualcosa del genere in cui c'è la componente neanche sovrannaturale, la componente non realistica che pian pianino esce fuori e diventa sempre più preponderante dal punto di vista della narrazione. Allora, spieghiamolo un attimo magari per chi, cioè per tutti quelli che non lo sanno, che Alex all'inizio del 2000, praticamente nei primi anni del 2000, ha realizzato questo lungometraggio totalmente indipendente con 2000 euro. Sì, qualcosina di più però. Ok, comunque diciamo che passò, diciamo, alla cronaca, se ne parlò insomma di questa cosa, proprio perché fu un progetto a basso budget con un alto livello anche di effetti speciali, perché penso che sia stato proprio il primo forse in Italia di quel tipo lì, di quel livello là, tant'è che ovviamente parlava di questa storia che partiva, come dice Alex, da un contesto di normalità e poi mi si arrivava nei sogni dell'iperuranio con situazioni, insomma, iperuranio è quello radioattivo, esatto, molto radioattivo, iperuranio, esatto, insomma. Però ecco. Cioè, diciamo che se devo essere sincero, 30 secondi di off topic, se lo rifacessi adesso il succo sarebbe lo stesso, ma l'impianto sarebbe un po' più sottile. Vabbè, mettiamola così. Vabbè, insomma, se c'hai 20 anni di più, sono anziano, esatto, e disilluso. 20 anni di più e sei triste e disilluso, giustamente. No, invece io su questa cosa sono d'accordo, cioè forse questo è un po', io ogni tanto lo dico magari quando si discute di videogiochi, di narrativa sui videogiochi, quello che mi capita sempre di notare è che pare che ci sia questa mancanza di coraggio, cioè pare che è difficile riuscire a realizzare una storia videoludica senza l'elemento fantascientifico, fantastico, paranormale, barra potere speciale, barra qualsiasi cosa, no? E quindi alla fine uno dice, ma perché se alla fine oggi il mondo del videogioco vuole confrontarsi con una narrativa più normale, indipendentemente dal fatto che c'è anche un aspetto ludico, quindi interattivo, può anche raccontare una storia normale, indipendente. Ascoltami, però guarda il cinema, guarda i film che fanno i soldi con la S maiuscola, sono tutti quella roba lì. Cioè, nel senso, il pubblico del videogioco non può anche essere un pubblico adulto, passami il termine, de sé, con tante virgolette attorno, ma sarebbe un pubblico talmente ristretto che non farebbe massa per poter diventare un prodotto neanche commerciabile, ma che potrebbe avere un minimo di rientro. Per cui posso capire, nel senso, se tu devi hai un target con vediamo dove lanciamo la freccetta, è molto probabile che tiri per tirar su qualcosa di abbastanza mainstream. Poi sul mainstream puoi costruire qualcosa di artistico, profondo, anche più concettuale, ma devi per forza tirare fuori una roba mainstream, nel senso. Eppure guarda, sai che qui faccio un attimo così, è vero che è un'eccezione, cioè nel senso, probabilmente scavando, perché a me mi è capitato questo gioco che comprai e giocai, ma lo trovai per caso, devo dire la verità, su Steam, che è un gioco alla Telltale, per capirci, cioè nel senso, una di quelle storie narrative, quindi con quick time event, scelte e conseguenze, che si intitola 1979 Revolution Black Friday, che racconta praticamente della repressione del regime iraniano nei confronti della rivoluzione studentesca, insomma, di ispirazione socialista, no? Che è in particolare come tema, cioè nel senso, eppure è una storia così coinvolgente e reale, perché comunque racconta una storia reale, e lì c'era proprio l'intenzione, cioè di fare un lavoro autoriale nonostante che sia stato un videogioco. Cioè, alla fine, a volte, non dico che deve essere una costante, no? Però a volte uno ci deve anche provare a fare cose diverse. È più probabile, però, Simone, che quelli che fanno GTA si ficcano dentro un personaggio costruito in maniera molto ricca e non che non sia tagliato con le accetta. Anche se poi vogliono un pezzo di nerda, figlio di puttana, ti sparo. Cioè, questa roba qua vuole il pubblico tipo che ha 12 anni e vuole lui stesso fare così. Vabbè, però non esiste solo quel pubblico là. Cioè, no, esatto. Senso... Però ripeto, è più probabile che riesci a filare una side story con un personaggio ricco, maturo e che non sia tagliato con l'accetta. Però nel senso, lo puoi ficcare dentro in un progetto così grande, ma non perché il videogioco lì sulla roba iraniana, sfigata, perfetto, ma lo conoscite? Io non so, neanche sapevo che esistesse. No, lo so, lo conoscono in pochi, anche se poi comunque anche lì c'è stata un po' di risonanza. Sì, ma la risonanza è la solita cosa. Oh, c'è stata roba lì. Anyway, sì, torniamo a parlare d'accordo. Ma questa però è la differenza che c'è tra il cinema d'autore e il cinema commerciale, no? Cioè, è chiaro che Iron Man farà sempre più milioni rispetto a un film di Pasolini, ma questo non significa che il cinema forse è più Pasolini che Iron Man. No, cioè, infatti, cioè, nel senso, i grandi autori sono quelli che riescono a darti la confezione magniloquente, ma poi ti ficcano dentro, cazzo, il messaggio che ti dà una botta. Oppure effettivamente ti fanno la confezione magniloquente, ma con una scelta violentemente verticale, stilistica, che dici, questa roba qui è vuota ma è bellissima anche se è vuota. Io penso a un Mad Max Fury Road, è un film la cui trama racconti in 12 secondi, porca puttana, io lo guarderei 10 volte al giorno. Perché? Perché visivamente ma non è visivamente, è proprio, c'è dentro quella roba che non puoi descrivere a parole. Perché? Perché ha un ritmo della Madonna, perché comunque è recitato bene, perché è coinvolgente, è una storia completamente scema ma veramente bella. Cioè, quella roba lì puoi fare, non puoi fare la cazzo di... io sai che sono un critico di... gestisco un festival di cinema, sì, ogni anno mi arrivano i film iraniani e li guardo anche, cioè mi becco tutte quelle roba lì, sono belli, ma no, questa è una produzione americana, però non è un film iraniano. Sì, ok, però ti devi sedere per seduto, ok, adesso mi guardo. Lo so, però ce ne sta anche quello, Alex, cioè se lo vogliamo cancellare completamente poi diventa un problema. E se posso, scusate, se posso intromettere. Sì, poi dopo No, volevo fare un rapido volevo lanciare un sassolino. Sassi ti dirò io, scusa, perché no, ed è per questo che quando hai a che fare con le case di sviluppo, stessa cosa per il cinema, secondo me sono giusti tutti i due concetti che avete voi. Sia io sono propendo più dalla parte di Alex con appunto il mainstream, appunto come stanno anche dicendo in chat per quanto riguarda i videogiochi, ovvero avere un publisher, ed è lì che nascono i publisher, perché effettivamente il film d'autore, come il videogioco d'autore, eccetera, hanno dietro dei publisher grossi, perché il publisher grosso, faccio l'esempio di Bethesda, di Rockstar, eccetera, caccia il giocone, quindi GTA, dove ci fa spendi i milioni ma ci fa i miliardi, e può avere il budget per finanziare ovviamente un progetto più autoriale, un progetto la stessa cosa che succede nel cinema, infatti. Come col cinema bisogna controbilanciare, tant'è vero che diceva Vincent Valentine, This War of Mine è un bellissimo videogioco, assolutamente, della 8-bit Studios, però loro effettivamente, se vai a vedere sugli score di Steam, This War of Mine a livello di posizionamento è molto meno comprato di un videogioco che io comunque adoro, a cui ho giocato, che è Frostpunk, che è molto più mainstream, perché è un gestionale appunto sul fatto che il mondo è finito a causa di una glaciazione perenne, e tu devi avere un gestionale molto molto cattivo. Cioè, attenzione, non stiamo parlando di un gestionale semplice, ma è molto complicato nelle meccaniche, tanto è vero che 90 volte su 10 ci rimani secco e devi fare devi fare tutta una serie di scelte molto cattive per completare le diverse missioni. Però è quello che gli ha fatto diventare 8-bit Studios un partner, cioè uno studio così grosso da poter appunto fare altri piccoli giochi, ma che ovviamente siano molto più autorali e molto più belli a mio punto di vedere, e facendo quadrare un po' la situazione economica, perché purtroppo il problema è sempre quello, sui soldi. Ci sta poco da... I sordi, no no, ma io sono d'accordo su questo, per questo ti dico, ci sono dei bellissimi videogiochi ispirati artisticamente che hanno un valore anche di impatto comunicativo che chiaramente bilanciano anche l'esistenza, cioè, sono state tutte e due le cose, no? Questo dico, però poi comunque il mio discorso nasceva più dal fatto che, cioè, mi piacerebbe che si raccontassero delle storie anche un poliziesco, che però prescinde, cioè io prendo un gioco come Life is Strange, che il primo, che secondo me è stato comunque emblematico da questo punto di vista, cioè tu fai una teen opera dove c'è un, succedono cose, c'è anche tra l'altro un omicidio, insomma una storia abbastanza particolare, però poi c'è sta cosa che lei c'ha il potere che deve riavvolgere il tempo, cioè ma perché? Cioè è così necessario, è sempre così indispensabile inserire questi elementi che oggi alla fine, cioè, si può fare anche a meno a volte, no? Hai ragione, però come dice Alex, mi continuo a intromettere, io infatti gli do ragione pienamente da questo punto di vista, purtroppo lo devi vendere il gioco, perché ci vuole sempre la cosa paranormale. Ti faccio un esempio, mo ritorniamo sempre su Starfield, 40 minuti di video di videoproduzione, tutti quanti stappavano lo spumante, sparavano a chi, qua là, videogioco definitivo. Io ho ascoltato, mi sono fatto il recap dei video, delle presentazioni, tutte quante le più grosse testate di settore, non di che cosa hanno parlato dei 40 minuti come è fatto Star, no, hanno parlato ma tu l'hai visto che negli ultimi 10 secondi quello fa la manata e volano tutti quanti, il potere paranormale, cioè capito, sono ormai quei che quei... vabbè, però quello è Starfield, è una cosa di fantascienza, capito, già sì, diverso, ho capito, insomma, ma, cioè... ma e qua secondo me ci vorrebbe uno psicologo che secondo me analizzasse la cosa, perché ti faccio un esempio, ormai noi siamo così riempiti di roba che effettivamente se non abbiamo, come posso dirti, il famoso kick, cioè quindi il famoso calcio nel culo che ci dà il, come posso farti capire, l'idea di immaginare qualcosa e di far lavorare l'immaginazione con qualcosa di appunto extraterrestre, fantascientifico, assurdo, il gioco si vende molto più facilmente. Mentre un gioco sia autoriale, che però dice, sai, sempre solito morto, arrivato a quel punto mi vado a leggere un libro, mi vedo qualcuno per strada che si... Vabbè, dai, questo poi questo però rientra più su una questione. Io, cioè, ho fatto proprio... No, ma io ti ho capisco, sintetizzato in un discorso che secondo me, io se dovessi scrivere una storia, scriverei una storia che è credibile e comunque che rimanga all'interno di un contesto che è quello della realtà. Poi che ci siano cose che a parte attirano più l'attenzione, sono d'accordo con voi, non è questa... Comunque, torniamo invece al... Poi Deborah, se hai qualcosa da dire puoi anche aggiungere, cioè tu intromettere. Sì, no, è interessante quello che stai dicendo, diciamo, ho avuto un'opinione su questa cosa. Vai. Io è bello, ho avuto un'opinione su questa cosa. Per quanto a me piacciono invece le storie realistiche, come sapete, insomma, quindi tutto ciò che è tendente al realistico lo apprezzo. Bra. Di più. Io non sono tipo da supereroi, no, però non è che guardo, ad esempio, solo i miei film preferiti sono drammatici biografici, quindi capisco che può essere un po' pesante la situazione. Però Frida Kahlo, per esempio, anche commedia, azione, animazione, tutto, insomma, alla fine va benissimo qualsiasi cosa. Secondo me il discorso che state facendo voi ha una logica, ossia, siccome le persone sono stanche della loro vita, nel senso, hanno tanti problemi quotidiani, quando passano quel poco tempo libero che hanno a giocare, a vedere un film, si vogliono rilassare. Quindi per rilassarmi, che cosa faccio? Mi guardo un una biografia su qualche personaggio storico che ha avuto una vita de merda? Oppure mi guardo un supereroe che ha i poteri speciali? Anche tutte e due le cose, però. Giochi, no? Cioè, stessa cosa, i videogiochi. Che faccio? Ho avuto una settimana di merda al lavoro. Mi metto a sparare piu piu piu? Oppure mi metto a seguire le vicende di una persona che ha traumi, eccetera, eccetera? Cioè, secondo me è soltanto da quello che poi c'è la richiesta. C'è la richiesta di fantascienza, di fantasy, di per evadere dalla realtà, a mio avviso. Tutto qua. Ok, sono d'accordo. In effetti il discorso è centrato, forse più centrato rispetto a quello che faccio io. Ci sta anche, secondo me, è giusto che ci sia anche, non dico un equilibrio, perché va bene anche il disequilibrio, però che ci siano delle storie, tipo, ecco, per esempio... alcune storie di investigazione, magari poliziesche, oppure anche storie personali, che pur essendo raccontate magari in maniera, come posso dire, metaforica o fiabesca, tipo quello della nuotatrice lì che hai fatto pure tu sul canale. Ah sì, quello breve di Annapurna. Sì, brava. Cioè, non mi ricordo. Comunque quella è comunque una storia drammatica raccontata in maniera artistica, cioè creativa, no? Che non è sempre, insomma, il solito cioè, poi ha venduto milioni, no? No, non ha venduto milioni, ma ci sta anche che ci sono alcune opere che possono anche non necessariamente essere dedicate ai milioni. In questo tema hai sbagliato qualche cosa, perché il videogioco che farei, poi dovevi scriverci due cose, o una delle due in realtà, per venderlo o per giocarci tu. No, quello è il ragionamento. No, aspetta, io faccio, ognuno fa il proprio ragionamento secondo quello che gli interessa e il proprio obiettivo. No, però è importante, perché se tu devi fare un gioco per venderlo... Ma no, perché allora se tu fai questo ragionamento, allora un gioco come Disco Elysium non sarebbe mai esistito. Aspetta. Voglio un attimo fare un esempio veloce, ti faccio un esempio. No. L'attacco delle Torri Gemelle, escono due videogiochi, tu ti trovi sulla pagina di Steam due videogiochi che parlano dell'attacco delle Torri Gemelle. Non lo sapevo neanche che esistessero, quindi più... Non lo so. Neanche le Torri Gemelle. Non più. Ti faccio un esempio, ti trovi sulla home di Steam due videogiochi che appunto raccontano in due maniere totalmente differenti la caduta delle Torri Gemelle. In uno sei appunto i dirottatori e devi fare il dirottatore, è un videogioco tutto frenetico, più come dici tu, più boom, esplode tutto e alla fine sappiamo come va a finire, e uno con tutta la storia dell'investigazione che parte con la CIA che ha tentato di bloccare l'attentato, ma poi alla fine è successo l'attentato. Secondo te, tra i due, quale venderebbe? Io non ci voglio mettere la mano sul cuore, ma sono sicuro che comprerebbero tutti quanti quelli in cui fa il terrorista. Cioè, sicuro. Quello è il ragionamento. Per cui, appunto. Io penso che e come in tutte le cose, nel mondo del cinema, dell'intrattenimento, come di qualsiasi altra cosa, ci sono delle cose che sono nate, progettate e con investimenti nati per fare i miliardi, e ci sono delle cose nate per essere delle opere creative. Cioè, nel senso, se no a un certo punto esisterebbe soltanto ed esclusivamente un certo tipo di storia, solo ed esclusivamente un certo tipo di cinema. Però è giusto quello che dite, cioè, nel senso, io non lo metto in discussione, dico semplicemente che mi piace il fatto che ogni tanto ci sia qualcuno che provi a esprimere un coraggio cercando di raccontare una storia. Ma noi questa sera vogliamo fare i soldi, per cui mi spiace, ma dobbiamo vendere i cozzigli. Ma no, ma cioè, ognuno fa quello che cazzo gli pare a lui, non è che tu devi guidare il cosa che fare io rispetto a quello che farebbe te. Debora, insomma. Comunque, Debora, raccontaci questa storia. Allora, io farei un gioco che probabilmente venderebbe la copia forse a mia madre, non so. Cioè, nel senso, sicuramente non è uno di quei giochi che la gente comprerebbe in mainstream, diciamo. Poi magari qualche masochista come me che gli piace il dramma proprio, i traumi, queste cose proprio che te fanno sentire male, magari ci sta, insomma, anche perché comunque sul canale qualcuno mi segue, quindi qualcuno masochista come me ci sta. E quindi io farei una ragazza che ha una vita normalissima, sempre fatto tutto in visual novel, molto fumettosa, lo vedo, molto fumettosa tutta la situazione. Fumettosa occidentale o fumettosa orientale? No, beh, europeo, un fumetto europeo vedrei, non tanto il manga, ci vedrei meglio un fumetto europeo, per questa tragedia secondo me è un francese, sai, un fumetto francese, c'è sta una crema. Qua perde 10 punti col francese. Vabbè, però il fumetto francese, fidati che per fare tragedie c'è sta una crema. Quindi praticamente questa ragazza che fa? Va al lavoro, insomma, c'ha una vita normalissima, fino a che un giorno inizia ad avere una sorta di fastidio al petto. All'inizio dice, vabbè, magari un po' di stress, no? Magari va anche a fare degli elettrocardiogramma per vedere se c'è qualche problema, no? Signorina, lei è così giovane, ma no, non ha niente, si figuri. E muore. Va bene, allora lei continua, no, vabbè, no, morì no, perché ci deve essere la tragedia vissuta. Se muore subito, non c'è la tragedia che muore, effettivamente. Se no è troppo facile, dici. Cioè, finisce subito, no? Deve essere una cosa lunga, agonia. Hai ragione, sì, adesso è un'agonia pesante, insomma. Hai ragione. E quindi praticamente lei continua la sua vita e che succede? Che succede che però continua a sentirsi male, inizia ad avere queste fitte al petto, inizia a sentirsi la gola che si stringe, inizia a sentirsi soffocare, fino a che proprio un giorno sbrocca, pensa che le sta prendendo un infarto e piano piano entra nel bellissimo mondo degli attacchi di panico, e quindi praticamente da qui la sua vita cambia e da questa cosa praticamente ci sarebbe poi tutta l'evoluzione della sua vita, quindi non soltanto dal punto di vista della salute, ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista che cosa riesce a non fare, che cosa non riesce a fare, dal punto di vista lavorativo, gli amici, quelli veri, perché in quel momento si vede chi è veramente amico, chi non ti è veramente amico, ti inizia a sentire come non vi offendete, no? Ragazzi, vai, è un discorso allegro, gelatino, c'è stato, ti tiri su di morale. E quindi praticamente sarebbe poi i dialoghi e le scelte che fa il personaggio, e quindi a seconda poi se parla magari con la famiglia, col ragazzo, con gli amici, c'è chi la prende bene, c'è chi la prende male, c'è chi non ci crede addirittura che questa che ragazza sta esagerando, sia male, dici. No? Dice, ah ma no, ma sono tutte pippe mentali, ma dai, ma che vuoi che sia? E quindi praticamente lei si vergogna anche di questa situazione, non esce più di casa, eccetera eccetera. E quindi è tutta questa evoluzione, non soltanto della malattia, ma della convivenza con questa malattia. Quindi poi magari andare dallo psicologo, eccetera, eccetera. Quindi vedere questa evoluzione della malattia, ma anche della sua vita sociale. E quindi poi potrebbe avere vari finali a seconda delle scelte che uno fa durante il gioco. Se vogliamo proprio fare la tragedia, potrebbe anche esserci il suicidio finale, volendo. Non lo tolgo. Io l'ho giocato a un gioco che finisce col suicidio del personaggio, quindi. Vedi, quindi insomma, potrebbe essere uno dei finali. Dai, direi pure, sì, è vero. Ma state attenti, perché effettivamente se una cosa del genere la fai in Italia, secondo te metà del budget te lo devi accantonare per gli avvocati, perché il gioco. Esce un gioco del genere domani mattina, io già me ce li vedo le pagine. Ah, i videogiochi prima istigavano alla violenza. Però guarda, in verità adesso ci sta una cosa che si chiama videogame therapy, e quindi in verità sarebbe un grande aiuto per chi soffre di questi problemi. Infatti Francesco che è in chat ci ha fatto anche una puntata con Deborah. Mi trovi d'accordo, ma esatto. Quando hai a che fare con persone intelligenti, visto che la maggior parte delle persone non sono intelligenti, e questo è un dato di fatto. A partire da noi, tra l'altro, cioè, diciamo che va bene. Effettivamente potrebbe essere un problema, però è simpatico. Beh, però calcola, ultimamente giochi che parlano di problemi psicologici ne stanno tanti, sempre. Di più, soprattutto appunto nel mondo delle avventure ne stanno uscendo tanti che affrontano questi problemi, perché comunque alla fine la malattia degli ultimi anni, soprattutto psicologica, il COVID, sulla depressione, sulla solitudine, sull'alcolismo, sulla solitudine, depressione, ansie, ma ce ne stanno veramente tanti di problematiche serie che finalmente vengono prese seriamente, e anche i videogiochi stanno aiutando tanto a far conoscere e approfondire queste problematiche, che secondo me è molto importante divulgare questa cosa per prenderla sempre più seriamente. Vedi, allora perché conviene, è un problema conviene con me serio. Quello che dico io, insomma. Sì, no, ma io infatti prima dicevo, secondo me il mio gioco venderà due copie, cioè a me e forse a mia madre, che diceva pure io sono impegnata tanto, pure te sono tre copie. Allora, però secondo me alla fine, cioè ovviamente sono i gusti miei, quindi sono quei giochi che invece a me proprio mi fanno stare, oddio che figo, lo voglio, però capisco che non è mainstream, soprattutto ripeto, secondo me una persona dopo una settimana di lavoro non si mette a vedere una cosa simile che si deprime, dice vabbè, non ce la posso fare, capito? Quindi capisco che è un argomento molto delicato, difficile da affrontare e anche difficile secondo me da sviluppare, perché non è facile spiegare che cosa prova una persona in determinati momenti, anche se ad esempio in Tell Me Why, che io vi tell me why. Sì, quello dei gemelli. Esatto. Io vi consiglio tantissimo di giocarlo, perché lì è la prima volta che un personaggio ha un attacco di panico, e praticamente tu tramite un'applicazione del cellulare la devi fare calmare, e onestamente rende bene. È spiegato abbastanza bene quello che prova la protagonista, quindi ad esempio è stato interessante vederlo, insomma. Quindi è una tematica che in verità viene sempre più affrontata nelle avventure, e io farei una dedicata proprio alla vita di questa persona, alla convivenza con la malattia, che può essere insomma una cosa difficile. Vi ho depresso abbastanza. È autobiografico sto gioco. È un po' autobiografica, se capiva. Però vogliamo il titolo adesso. Il titolo, giusto. Si chiamerà Finché è morta non ci si fa. Vabbè. No, non lo so il titolo. Vabbè, che poi tra l'altro non è detto che sia la prima cosa il titolo. Giuseppe, invece, che cosa racconta il tuo? Ti ripeto, guarda, io me ne sarei uscito alla velocità della luce, ecco, anche a furia di sembrare un cavernicolo, proprio perché sapendo i limiti tecnici della produzione, ecco, una produzione così ragionata e psicologica, io sono già sicuro di non poterla affrontare, e quindi il mio appunto sarebbe stato uno spaziale basandosi su quello che è Spore e Non Me Sky, cioè quindi all'inizio tu ti scegli un personaggio, mm-hmm. e una volta scelto il personaggio e un background simile a quello che abbiamo già visto in Starfield, tramite appunto tutta una ricalibrazione, quindi il grosso sarebbe l'algoritmo di gestione dei pesi, ti crea un mondo, ma che non deve essere un mondo enorme, quindi come quello di Non Man's Sky, addirittura io lo farei anche più piccolo di quello di Starfield, cioè quindi un qualcosa di molto piccolo, magari anche un solo sistema solare, tipo il Piccolo Principe, no? No, una cosa tipo anche un solo sistema solare, però aspetta, c'era un gioco che si chiamava The Other Worlds, per esempio, The Other Worlds, una cosa del genere, cioè quindi che a seconda, però ovviamente aveva delle altre tematiche, si però lì c'è la loop temporale. Bravissimo, io invece lo baserei sul fatto che ogni volta che tu rinizi il gioco, tramite appunto scegliendo il background del personaggio e quindi basandosi sul seed che è stato preprogrammato, vivresti la stessa vita ma diversa, quindi un continuo susseguirsi di universi paralleli, dove anche andando a cambiare quella minima scelta, lavorando di procedurale, si autoadatterebbero tutte le quest, uscirebbe un puttanaio, già lo so. Sono sicuro. Raga, esce un puttanaio. È un casino, fratelli. Sì, esce un puttanaio. Waldi? Scusate, io però mi hanno portato il gelato, mo mangio. E il gelatino è importante. Poi anche mangiare. Ma non sei a dieta, scusami. Sembra per traverso. Sì, sono a dieta, però che è arrivato. Ma soprattutto che gusto il gelato. Nutella e caffè. Porco zio, Nutella. Proprio a dieta sei, Io sono messo peggio perché sono insieme a mia moglie che sta. Bravissima. The Expanse in versione Non Me Sky. Non male. The Expanse in versione Non Me Sky. Beh, The Expanse, vabbè. Okay. È un po' troppo politico perché io l'ho vista la serie. The Expanse la serie. È un po' troppo. È il trono di spade nello spazio. Bravissimo, sì, diventerebbe una cosa alla. Non da gestirlo bene. Effettivamente sì, però potrebbe essere un bonus. Allora, io il mio gruppo, sentendo quello che è venuto fuori stasera, aveva deciso. Abbiamo deciso di fare, però poi vediamo, perché l'idea originale era quella di fare un open world dove c'è sia il fantasy che la scienza. Poi vabbè, questo l'abbiamo capito. Due grosse fazioni, perché non ci siamo decisi. Una fantasy e una scienza. Abbiamo deciso di farle scontrare perché non ci siamo decisi. E quindi lottano per avere la supremazia. Però tutto questo poi è ambientato a Teheran nel 79. E chiudiamo in questo. Vedi, io lo comprerei subito. Genio. Mio. Genio assoluto. Day one. Assolutamente. Pre-order direttamente. Ma quindi questa è la storia, insomma. Questa è la storia, poi come va avanti vediamo. Vabbè, andiamo da Alex. Forse. Vabbè, aspetta, almeno il protagonista, parlaci un po' del protagonista. Il protagonista, beh, deve decidere se deve parteggiare per la scienza o parteggiare per la magia. Quindi puoi scegliere te nel gioco? Certo. Ah. Questa è una delle poche cose che potrei scegliere nel gioco, perché essendo poi a Teheran nel 79 potrebbe essere che... Tanto mi si è spento il moglio, così. Ma pure a me prima, effettivamente, per un minuto non vi ho visto, mi si è spento così, il moglio. Così, si è spento il moglio, vabbè. Perfetto. Va bene, ok. Alex, torniamo da Alex. Parliamo delle cose serie. Cacchio, sai che io ho in mente una storia da tanto tempo, però una storia che ho in mente per effettivamente una storia lineare, non interattiva, per cui non so se potrebbe avere tanto senso. Una storia lineare? Beh, perché? Tanto pure le storie interattive alla fine finiscono per essere storie lineari. Ok, vabbè, la storia è molto semplice, si chiama Totem. È praticamente la storia di un ragazzo e una ragazza, diciamo sui 25-30. Praticamente lui, non si sa come, ha in mano un totem che è praticamente una sorta di bastoncino di metallo di queste dimensioni, tipo d'alluminio, e quando ha in mano questa cosa qua lui praticamente può fare sesso con chiunque gli voglia. No, aspetta, la storia cosa è semplice. Già Totem. Esatto. Sondava male. E ci siamo mangiati il PEGI 18. Va bene, la regola è questa, nel senso, quando tu lo fai, nel senso, tu puoi decidere e farai sesso tutta la notte, quello come vuoi con questa qua. Però va come va, non è che sei subito dio del sesso, nel senso, se fa schifo, fa schifo. Due, praticamente la donna non saprà mai che è successo per questa roba qui, o la uomo, nel senso chi ha in mano il totem. Cioè che è successo perché tu c'hai il totem. Esatto, esatto. Okay. Tre, è l'ultima volta che farai l'amore con questa donna, con questa persona per sempre. Per tutta la vita, ok. Esatto, per cui nel senso lui, il personaggio è innamorato di una persona e solo che appunto non vuole sfruttare il totem per l'ultima volta, per cui fondamentalmente passa una vita di dissolutezza. Trombandosi un po' tutto quello che gli capita attorno, perché tanto dice non serve a niente, finché fondamentalmente si incontra una tizia a cui lui piace, che a un certo punto scopre l'esistenza di sto robo qui e ne nasce anche una sorta di amicizia, di collaborazione, perché lui glielo presta e anche lei comincia a averti tutto quanto. Non vi racconto come va a finire, perché probabilmente non è anche tanto divertente, però è interessante perché appunto ti mette di fronte a questa scelta, nel senso la speranza di qualcosa che capiti normalmente, oppure tutto è subito, poi dopo. Beh, certo, questa è una storia anche da cortometraggio, tutto sommato. Sì, ma in realtà è nata come una sorta di cortometraggio. Si vede l'autorialità, cioè noi, capito, ci siamo persi le cose. Quindi autorialità, quindi schifo, non ci frega niente, perché si vede che è una sceneggiatura, cioè, capito, è un qualcosa che in un videogioco. Non è una sceneggiatura, è un soggetto. È un sì, raga. Io in realtà usiamo i termini per quello che so. Mi scusi. Va bene, la perdono volentieri. Titolo: il bastone. Totem. Il totem. Totem senza il. Sì, il totem assolutamente. Vabbè, dai, lo facciamo in Unreal Engine questo. Ma poi c'è pure le scene no. Ma io sai che sono un grande fan del non si deve vedere per forza tutto. Infatti, cioè, bravo, sono d'accordo. Non è quella la cosa fondamentale. Infatti. Io se c'è una cosa che odio è la gratuità. Nel senso, poi sesso. La gratuità. Cioè, nel senso, però deve. No, che hai detto? Però deve essere nel cinema. Ok, se vuoi vederti un film, però nel cinema d'autore ci deve essere un senso perché ci sia un, sì, certo, una scena di nudo. Certo. E quando è gratuito. Lo trovo anche più, mi dà molto fastidio. Che diciamo che oggi nelle serie, in molte serie televisive, diciamo, c'è questa moda, no? Sì e no, allora, se partiamo dal Trono di Spade, per esempio, che nelle prime stagioni era proprio spintissimo, anche nel nostro medioevo. Poi si è dato una calmata, comunque. Sì, vai, perché poi è diventato talmente troppo mainstream, però anche nel nostro medioevo fondamentalmente, cioè, era molto più libera la cosa, si è diventati molto più prude, com'è che si può dire? Puritani. Riservati. Puritani, esatto. Nel 1800, prima sì. Proprio, cioè, sì, è vero. Vabbè, infatti, pure la serie televisiva Roma, insomma, ma in realtà questo è abbastanza. Anzi, Roma, diciamo proprio la prima sequenza, la prima puntata, proprio tranquilli, proprio. Quindi, cioè, vabbè, però, giustamente, se vuoi ricostruire anche un contesto, c'è sta anche. Il problema è che oggi, in alcune serie televisive, a volte c'è quel pizzico in più che a volte sta lì. Vabbè, la menano perché sanno che andrà sui social, e quindi appunto ritorniamo al concetto di marketing. Ma prima di questo, la cosa che mi dà fastidio nelle serie televisive, soprattutto più che nel cinema, è questa cosa di ti faccio vedere come siamo trasgressivi. E allora i sceneggiatori ci proprio caricano, mettono l'asso di bastoni, cioè, sì. Proprio la caricano. Sì, perché c'è stato un momento in cui era anche sfiziosa l'idea della trasgressione, tipo quando è uscito Californication. Sì. Cioè, c'era un senso, no? Poi dopo, però, come succede nella televisione o nel cinema, vanno tutti sulla scia, no? Ora, ti dirò, la cosa che mi ha fatto chiudere la sala cinesca proprio da un certo punto, insomma, avete rotto il cazzo, veramente, scusate la volgarità, è stata la serie, come si chiama? Sex Education. No, Sex Education secondo me invece è molto carina, anzi è anche molto educativa per certi versi. Come si chiama quello lì dove c'era quella avvocata di colore, Annalisa, e c'erano le tizie che commettevano un omicidio, i suoi studenti? Scandal? Scandal è il seguito, è lo spin-off. Aspetta, usiamo zio Google. Le regole del delitto perfetto. Sì. Ecco lì, la prima stagione è bellissima, secondo me. Dopo un certo punto ogni puntata dobbiamo caricare un po' di più, ma si vedeva proprio che c'era il producer che dice, aggiungete un po' di trasgressione, 10% di trasgressione. Carica. E lì proprio mi ha dato veramente fastidio, proprio l'ho trovato veramente urtante, oltre che a un certo punto... Urticante, vabbè, ma torniamo al nostro videogioco, quindi da Debora, che però ovviamente, giustamente, se parliamo delle meccaniche, cioè lei un po' già ce l'ha svelato, cioè c'è poco da dire, insomma, sul discorso del visual novel, no? Cioè nel senso che per quanto tu possa strutturare una interazione, che magari ci sono delle ramificazioni, comunque la visual novel fondamentalmente è tanta lettura e alcune scelte in determinati punti, no? Eh sì, alla fine è quello. E poi ti ho detto ci sono vari finali, fra cui quello tragico, insomma, assolutamente. Ci vuole anche quello tragico. È bellissima sta cosa perché cioè, che ne so, cioè, ho detto anche il tipo di disegno, quello francese, il fumetto francese, vedi? Io mi immagino colonna sonora un po' violino anche. È tanto violino. Io mi immagino che ha il finale del suicidio, cioè per la serie dice va bene, ho sbagliato tutto nella mia vita, significa che effettivamente Sì, praticamente a una certa dici forse mi sa che ci ho capito poco come aiutarla, quindi capito, cioè, effettivamente io Zitti. Lo sentite? Sì, una cosa addirittura anche più carica, cioè più, ancora più depressa. Ma io domanda, Debra, come mai una cosa così didascalica? Ma nel senso tipo... Cioè nel della senso musica, che... sì, sulla parte della musica. Io sono molto curioso, perché la scelta della musica è la cosa più importante in qualsiasi opera di comunicazione. Vero. Allora, perché secondo me il violino, soprattutto se penso al cinema, è stato utilizzato spesso per tragedie. Quindi, la Schindler's List, sì, che sì. C'è il violino. E quindi quando ho pensato al fumetto, cioè la grafica, un fumetto francese, secondo me è quello giusto per raccontare questo tipo di storia. E come musica io ho il violino che è delicato, allo stesso tempo un po' tragico, però è un po' di accompagnamento, no? Perché nel senso alla fine il giocatore secondo me si deve focalizzare sulla storia e sul problema, quindi secondo me il violino accompagna nella maniera giusta una storia delicata che può essere tragica se poi uno fa scelte sbagliate e porta al finale tragico, insomma. Quindi secondo me il violino, sai, quel sottofondo un po' così ci sta bene, magari che ne so, ambientato in inverno, con c'è un po' di neve, che ne so, una cosa così, e ci sta, capito, un po' di violino, insomma, ci sta. Dentro. Guarda, rispetto alla tua opinione, ma non la condivido, secondo me diventerebbe, come in Schindler's List, veramente didascalico, cioè, per certi versi, secondo me, come l'hai raccontato, come me la sono vista io, me la sono vista che molte sequenze senza assolutamente musica, proprio andando a togliere. Ancora più duro. Ma questo è assolutamente gusto personale. Sì. No, beh, ma mentre lei si sente male, sono d'accordo, assolutamente. Il violino, secondo me, l'accompagna nei viaggi, quando va al lavoro, quando va da delle transizioni, quando va dagli amici, quando deve fare un viaggio in macchina, che ne so, queste cose qua. Quindi nelle scene di transizione il violino ce lo vedo, onestamente. No, che t'ammazzi poi. Cioè. Sì. Tu immagina che esci da casa e ti senti uno col violino. Era come qua la puntata di cosa? Com'era la puntata dei Griffin che lui aveva... la colonna sonora integrata, non vi ricordate? Che Peter per la colonna sonora, si chiede un desiderio di avere la colonna sonora. Sì, me la ricordo, meravigliosa. No, comunque è vero che il violino è sia uno strumento molto dolce che uno strumento di grande lamento, perché se suonato in una certa maniera è un lamento, cioè nel senso è... Quindi diciamo che come accompagnamento ci sta anche il silenzio. Ma io non capisco perché mi si spegne il monitor, però. Cioè. Secondo me dovresti invece prendere che la vicina di casa della protagonista è una bambina che sta cercando di imparare a suonare, ma suona di merda. Per cui. E quindi tipo mentre lei si sente male, la bambina stecca. Tipo quelli che suonavano il violino sotto la metropolitana, che erano terribili, no? E magari al terzo giorno dell'avventura senti l'altra vicina di casa e vuole porco tu! Adesso basta, non uscire più di casa, se no c'è l'accompagnamento musicale che rompe il cazzo del quartiere. È uno dei finali, potrebbe essere che non ti suicidi tu, ma uccidi la bambina. Esatto. Impiccandola con le corde. Oppure tutti quanti. Oppure che la popolazione la rinchiude tipo dentro una torre, così non parte più il violino. Esatto. Perché il problema, in realtà, il dramma, il vero dramma, sta nel fatto che questa, dovendo uscire di casa, è andata dallo psicologo. Cioè, tutti sapevano, cioè, che sono i 14, cazzo, deve uscire, ma no, sono psicologo, tutte quelle tappe, perché come lei uscì di casa. Vabbè. E questo sarebbe il gioco da fare, veramente, completamente. No, che inizia come una cosa sensata, poi devi prendere la sua deriva completamente. Sì, effettivamente sì. Jenny, questo è il best buy del 2024, ve lo dico io. Però, però va ambientata a Teheran nel 79. Esatto. Sociale dietro. Sì, vabbè, sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, anche se non so quanta sensibilità verso lo psicologo c'avevano a Teheran nel 79. No, ma io più che altro voglio sapere chi dirigerà la colonna sonora e ti dirà, scusa, dannazione, ci stanno le bombe che cadono, come faccio a farti sentire sto violino della vicina? Cioè, quello è il ragionamento. Cioè, tra una bomba e l'altra, perché ci sono certi violini. Vi prego, tirate una bomba su di noi. Non ce la facciamo. Le bombe non esce, quindi si è risolto. Ci sono alcuni violini che sono talmente stridenti che giustamente anche le bombe. Peggio delle bombe. Anzi, ovviamente, in realtà il violino fa da accompagnamento pure alle bombe. Fa... E vabbè, dai, comunque abbiamo distrutto un gioco bellissimo, una storia, cioè, una storia intima, intima, personale. Noi niente, ne abbiamo mandato a puttane pure. No, vabbè, ma è divertente, poi c'è, perché puoi giocare, no? Scusaci, Deborah, scusaci. Scusami, c'era tipo a Monkey Island, puoi scegliere tutti gli enigmi o pure più facile. Mm-hmm. E qui scegli la versione seria o la versione goliardica, esatto, puoi giocare entrambe. Oppure, cioè, no, lo fai proprio come DLC. Quando tu hai finito il gioco, c'è una versione aggiuntiva che è quella che ammazza la bambina, praticamente. La director's cut. Perché alla fine la bambina muore, come dici sempre. Chiaramente, se quella è un must. Muori sempre. Un must. Allora, niente, vabbè, dai, pugliese, meccaniche, tu storia, meccaniche e concezione è tutto la stessa cosa, cioè nel senso sì, procedurale. Io sì, perché per forza, col fatto di essere one man band, al massimo un altro deficiente che sa programmare in Unreal, me ne esco veloce. Voi siete molto più ragionati e molto più profondi da questo punto di vista, perché io già so che è un'opera prima, poi se mi faccio i soldi mi ci metto. È così che funziona, è così che funziona. Ma quello, così lavorano le case di sviluppo. Tant'è vero che, ritornando a 8-bit Studios, il primo gioco appunto è stato Frostpunk, e poi hanno, oppure se no, rilasciarono The War Is Mine, non mi dico un cazzo, fecero Frostpunk che ha venduto un sacco e poi hanno continuato. Che poi The War Is Mine, secondo me, col passare del tempo a posteriori, secondo me ha venduto comunque come gioco, perché poi... Secondo me sì, soprattutto con la situazione della guerra in Ucraina, effettivamente sì, ha fatto un revamping su Steam. In generale, comunque, il fatto che sono uscite, cioè, anche diverse versioni, cioè, perché il gioco originale era un gioco standalone, cioè nel senso, fino a che non morivi tu andavi avanti, no? Sì. Poi è uscita la modalità stories, quindi c'erano tutte queste cinque storie, piccole storie brevi, la meccanica del gioco era la stessa, ma tu c'avevi un motivo, c'avevi uno scopo, un focus, che era carino. Per esempio la prima era... lui aveva la figlia malata e quindi doveva cercare praticamente di trovare risorse, aiutare, medicine, roba e genere. Poi a un certo punto la figlia viene rapita. No, a me come gioco mi è sempre piaciuto, devo dire, c'è un fascino tutto suo. Perciò ti dico, io è vero che sono un po' sempliciotto, però ti ripeto, conoscendo tra virgolette il mondo della programmazione, me ne esco velocemente come opera prima, anche perché poi so che facendo diciamo il grano posso assumere chi meglio di me potrà dirigere una cosa del genere, e chiameremo Alex. Il grano sempre in Ucraina, però. E chiameremo Alex per dirigere appunto tutta la parte, visto che un gioco dall'impronta prettamente cinematografica, anche a me è sempre stato un qualcosa di che avrei sempre voluto fare. Chiamiamo Alex. Alex. La prima cosa che faccio quando arrivo lì, qui facciamo tutto giallo. The Yellow Game. Esatto, Alex, tu lo chiami perché sai, diciamo, guarda Alex, mi serve professionista per fare sta cosa, cioè te ci metti d'accordo, poi quando viene lui ti stravolge tutto, fa tutta un'altra cosa. Ma per questo ti dico, un pochino lo conosco, diciamo, anche in maniera privata, e so che è la persona che abbiamo dei gusti simili ma diametralmente opposti, dovuti sia per l'età che anche per il background differente, e quindi potrebbe darti diciamo, tu vuoi fare una cosa, magari un corridoio, e lui ti caccia tutta una superstrada, un giro che ti farebbe svoltare, ovviamente in positivo ma anche in fortemente negativo, tutta l'esperienza. Va bene, Marco, le tue meccaniche, cioè non si è capito, cioè noi abbiamo capito che è un fantasy fantascientifico open world. Allora, è un po' RPG sarebbe, ma non troppo, perché in realtà perché l'evoluzione del personaggio non è tanto sulle statistiche fisiche, perché magari gli metti il punto così, però è sull'attrezzatura, che può essere magica o può essere tecnologica oppure tutte e due, che aumentano le statistiche del giocatore. Quindi non è il giocatore che aumenta la destrezza, che aumenta i punti vita, che aumenta la costituzione, ma sono le attrezzature che mette addosso, e quindi i miglioramenti vari che aumentano l'arma. diciamo, le statistiche del gioco. Quindi sul resto è RPG, ma sull'evoluzione del gioco, del giocatore è così. Ovviamente tutto quanto viene gestito un po' ad cazzum dalle intelligenze artificiali, che vanno praticamente a gestire quelle che sono le quest e le subquest, e quindi anche poi i rapporti tra i giocatori, che potrebbero essere dei come compagni, prima, che potrebbero essere okay. anche traditi, perché magari arriva quello, cioè, io ti tradisco. Io però c'ho una domanda, scusa, cioè queste intelligenze artificiali che gestiscono le quest e le subquest, anche i dialoghi, no? per renderli dinamici, perché a cazzum? Cioè, nel senso che alla fine è quello che fanno le intelligenze artificiali, esatto, anche perché poi reagiscono in base a quello che succede nel gioco e quello che fai tu, quindi si adattano a quello che succede, e potrebbe essere, cioè, ogni partita praticamente viene, cioè tu stai dal tizio che ti deve dare la quest, ok, esatto. E secondo me c'è, cioè, tipo Deb che gli chiede, cioè lui ti dice io devi andare a recuperare una cassa d'armi, lui ti dice, aspetta, ma c'è, va Deb e gli dice sì, però io tu voglio che tu guardi il fusibile dietro la tendina. E dico, no, ma che cazzo devo guardare a fare il fusibile dietro la tendina? Cioè, giustamente. Invece no, invece c'è altri GPT. Di poterlo dire, perché farei. Non devo tirare dadi, quindi te lo dico e vaffanculo. Okay. Io già mi immagino il personaggio, una bambina bassa, capito? 1,30 m col vestitino. Bravissimo. Mi vai a recuperare la cassa d'armi, perché devo fare una strage. Perché con l'intelligenza artificiale andrebbe a finire così, io ve lo dico. Ma è quello anche il bello, cioè in realtà dovremmo avere una, diciamo, un sistema che sia un po', diciamo, innovativo. In realtà la bambina, dato che ha le dita piccole, viene utilizzata per tenere la sicura della bomba a mano, perché si è sganciata, capito? Quindi bambina, stai così, che se ti devi è un po' un casino. E corri verso papà. A Teheran. Vabbè, ovviamente la bomba in più, la bomba in meno. Salutiamo gli amici iraniani, che chiaramente bravo, che ci seguono, quelli che sono sopravvissuti, ovviamente. Che ci seguono, e contro i quali noi non abbiamo assolutamente niente. Tra l'altro, voglio precisare questa cosa. Insomma, Alex, chiudiamo con le meccaniche del tuo bellissimo gioco, così poi andiamo a salutare i saluti. Che star grande cazzo, perché ripeto, io l'ho pensato effettivamente come una storia lineare, per cui la vedo difficile renderla. Renderla più pragmatica, cioè più, sai che potrebbe essere, come va molto di moda, queste storie testuali, visive, interattive, a forma, cioè in modalità fotoromanzo, cioè tipo immaginati il fotoromanzo, quindi tu fai tutti i set, le fotografie e tutto quanto, poi ci sono delle fasi di testo dove poi, a seconda delle scelte, alcune cose che fa il giocatore, si va verso una parte piuttosto che dall'altra, però seguendo comunque quello che è il plot della storia lineare, insomma. Vedi, allora te la racconto in modo diverso. Diciamo che se tu, nella mia idea, in un'idea generale di fare una sorta di gioco di ruolo, no? Se il gioco di ruolo è sempre un sacco di statistiche, però devo dire la verità, è la cosa che mi uccide la sospensione dell'incredibilità, il fatto di vedere queste statistiche a video. Se ci sono le statistiche, però vengono mascherate con qualcosa di narrativo, allora è diverso, nel senso, nel gioco tu sei stanco perché è passato tutta la notte a trombare, okay, dopo devi andare in ufficio e non capisci più un cazzo, oppure nel senso, non devi avere stamina X e riflessi Y, ti si appanna magari la vista e ti esce l'icona del polaco sotto, ma no, neanche l'icona, nel senso, sarebbe interessante che la percezione, anche la velocità di riflessi, ripeto, cioè che vedi anche tu, nel senso che muovi il mouse, sì, invece ci mette quel minchiesimo di secondo in più, che però ti dà questo senso di affatto. Guarda, ci sono dei giochi che limitano all'estremo, se non addirittura cancellano totalmente l'interfaccia a schermo, però devo dire che deve essere veramente ben progettato il gioco. Deve essere ben progettato, ma secondo me deve essere una cosa abbastanza sottile, nel senso, anche, lo fai tutto in prima persona, le persone che incontri guardano, mica che faccia di merda che hai, oh, ma dormi la notte invece di fare di folleggiare, cioè... Mi ci andrà col totem in giro. Abbiamo, ovviamente. Questo perché sei a Milano, quindi oh, faccio di merda. Figa! Assolutamente. Figa! Assolutamente. Bene, la mattina i miei colleghi mi hanno detto stanotte hai dormito. Vabbè, diciamo però, che tu non sei mai passato per uno che dormiva, poi insomma, però insomma, quindi esatto. In realtà sono un dormiglione, non mi è piaciuto fare le ore piccole. Detto questo, ripeto, preferirei qualcosa del genere che non sia proprio vincolante. Ovvio che se uno ti spara in un videogioco in un occhio, magari ci sta che non vedi un cazzo nell'interfaccia. Però deve essere una cosa un po' reale, nel senso, come la bambina lì, oppure la storia dove tu hai dei problemi di interazione con gli altri, nel senso, non voglio parlare di problemi psicologici perché è troppo forte come cosa, nel senso, hai dei problemi di gestione del tuo stato, è ovvio che magari hai una percezione differente. Tipo anche il fatto di esci e c'hai la saturazione diminuita del 10%, mm-hmm. La stronzata, nel senso, non è il verde di Matrix, però quella cosa lì che ti dà quel minimo, cioè proprio tante cose pulviscolari che però alla fine ti danno un'esperienza che passa su quei canali che non sono razionali, tipo il primo Max Payne, perché visse il primo Max Payne, lui quando andava, sì, però in un Max Payne ti sento più, Alex. Io non ti dicevo più niente, questa ok, ah no, pensavo stavi Pizzi, sei rallentato. Sono rallentato, andate via la voce, Simone. Max Payne giustamente è un gioco d'azione eccetera eccetera, eccetera. Ci stava che lo pompasse al massimo, invece sta roba qui sarebbe molto più figa se fosse sottile, nel senso che ci devi veramente fare caso perché questa roba la percepisci. Invece vabbè, anche non perché percepisci. Non è un action RPG, per cui se c'hai 10 punti di desiderato devi sapere, insomma, quindi devi qualcosa alla Metro, esatto. Exodus, pure per esempio la serie di Metro che io ultimamente ho ripreso, ha una gestione dell'HUD mostruosa, cioè nel senso tu non hai HUD di nessun tipo, per esempio come farti vedere dai nemici quando sei illuminato o non illuminato, lui sul braccio ha appunto l'orologio che ti dice appunto che ore sono, importante, sì, però, e se vieni appunto illuminato, sì, però si accende una piccola lucina, esatto, cioè, è una paraculata, però è come se usava pure su Splinter Cell, no, cioè tu dici non c'ho l'HUD, però poi alla fine c'ho Splinter Cell aveva ancora l'HUD mentre Metro, essendo in prima sì, persona, sì, però cioè, vuoi dire che tu c'hai la cosa che ti si accende sul braccio, cioè la stessa cosa da avere il segnalino sullo schermo, cioè nel senso, tutto sommato soprattutto sei visibile, cioè. Però Marco diceva, Marco faceva riferimento al fatto per esempio del, se io so che sto per morire devo saperlo, no, giustamente, cioè, esatto. Si usa tante volte la desaturazione, se va tutto verso il bianco e nero e lì lo capisci che stai per morire, sì, però non devi fare come nel Signore degli Anelli dove a un certo punto era praticamente vedevi soltanto il rosso dalla pelle, deve essere una cosa sottile, oppure che quella gente ti parla ti filtra un pizzico le frequenze medie, proprio te le abbassa di 2 decibel. Devi un lavoro di level design, questo è level design. Esatto. Sì. Oppure, nel senso, lo stesso tema del musicale, e a un certo punto ci metti un passaggio al misolidio, modo che è proprio quella nota che è sbagliata ma è giusta per certi versi, che però ti ribalta tutto. Col violino. È una cosa che razionalmente parlando non te ne accorgi, ma sotto lavora tantissimo. È interessante, sì. Vedi, sì. Più sfocato laterale. Sì, sì, una cosa del genere, per esempio nel gioco di Deborah, secondo me funzionerebbe alla grande. Cioè, nel senso, essendo sì, qualcosa sì, di psicologico, HUD praticamente zero, e dovresti lavorare di level design. Beh, certo, guarda. Quando ti prende un attacco di panico, c'è cioè un momento di ansia, inizia a diventare tutto sfocato, ti si ristringe, no, sì, sì, beh, dai, ci sta, penso, no, Deborah, non so. Sì, si potrebbe stare. Vabbè. Voglio dire, statene zitti che il mio gioco ce l'ho già in testa. Se non avete capito un cazzo. Sì, ti strozzi, no, non capite niente. Statene zitti, non avete capito un cazzo. No, a me basta mettere del violino, una certa. Infatti. Io passerò la vita a combattere contro il tuo cazzo di violino. No, violino, no. Online. No, violino, no. Vabbè, ragazzi, noi questa puntata invece la chiudiamo proprio con un bel suono di violino che sale, insomma, mentre che ci salutiamo. Non io fa male. Sale, non fa male. Vabbè, no, vi devo salutare perché purtroppo c'ho un impegno imprevisto che non avevo considerato. Anzi, il gelato. No, in realtà devo andare da una parte. A evacuare il gelato. No, allora, devo andare a mettere l'antifurto a casa dei miei suoceri, quindi insomma, sono scordati. Comunque, intanto ringrazio Giuseppe Pugliese, che è già la seconda volta di seguito che viene. Attenzione. Ciao Giuseppe, grazie di essere stato con noi. Grazie mille a voi di tutto e speriamo di tornare. No, ma infatti mo ci saranno altre occasioni. Nella vita, dici. Ma pure a Runtime by Night. Quindi. Di tornare. Esatto. Poi ringrazio Marco Gualdi col suo bellissimo open world fantasy fantascientifico ambientato a Teheran. Successone. E anche il successore ci sarà poi dopo. Assolutamente, perché si è già previsto il seguito. Esatto. Sarà un successone, cioè sul grande bagno, sul cessone. Esatto. Quello dopo. Posso fare pubblicità a coso? Come no, hai ragione. Ci siamo dimenticati. Lo so. Tutti venerdì fino a fine luglio, poi dopo a settembre. Giustamente ci facciamo i cazzi nostri. Ho visto cose dove io e Olivia, la mia compagna di viaggio, onirico di questo mondo generale, sia videoludico, sia filmico, seriale, materiale, quello che è, commentiamo ciò che vediamo. Ed è bello. Benissimo. Fantastici pesci, pesci per tutti. Esatto, no, è un podcast che, nonostante sia andato da poco, devo dire che è in rapida ascesa e sono contento perché l'idea è carina, è talmente astruso che alla fine escono fuori anche cose veramente molto interessanti e mi fa piacere comunque. Quindi in teoria venerdì prossimo o esce un episodio come esce di solito oppure c'è una live, però tutto dipende da domani, quindi poi vediamo. Domani sera. Vi ricordo invece che noi lunedì sera, la prossima lunedì sera, parleremo di Zelda con Carmine Puccio Console. Finalmente parleremo di Zelda, insomma, perché tutti che dicono ma tu voi non parlate mai di Zelda, a noi Zelda ci fa schifo, cioè lo potremmo dire, cioè Zelda a noi ci fa schifo, Nintendo ci schifo a noi, però c'è anche gente che lo ama e quindi ne parleremo, insomma, anzi ne parlerà Carmine perché io non ne parlerò, non so niente, esatto, non ne so proprio niente, non penso di aver giocato solo un Zelda, il primo su NES, Illo Tempo, intanto è arrivato qualcuno, incredibilmente. Cioè, no, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Che? Scusi, lei chi è? Abbiamo un altro Alex. Ma che, perché qual è sta cosa? Non so perché è successo. Ok, va bene. E ringrazio e saluto Deborah del canale Pixel Deb. Vi ricordo di andare sul canale, iscrivetevi, attivate la campanella, soprattutto guardatevi i video, mettete like e condivideli tutti perché... A Deborah serve, insomma, che gli date la mano, perché lei sta facendo un lavoro incredibile, oltre divertente, perché ha creato una comunità. Questa è la cosa più bella, perché magari non è il canale da 20.000, 30.000, 50.000, è ancora un canale relativamente piccolo, ma ha creato una comunità, che è secondo me la cosa più divertente. Poi dopo quello che succede con YouTube... Concordo. Esatto, okay. Brava Deb, tu hai creato una comunità, noi ci andiamo. Noi ci andiamo in comunità. Quello che sto dicendo io, la cosa importante è crearla ma non andarci in comunità. Esatto. Detto questo, vi ringrazio, insomma, di iscrivetevi anche al nostro canale qui di Dietrologia Videoludica, iscrivetevi anche al canale di Runtime Radio. Oddio, scusate, mi stavo strozzando. Potrei morire, infatti. Ma soprattutto mette il vino triste, capito? Ma quello c'è già sotto, tu non lo sai, ma già c'è. E ci vediamo, insomma, la prossima settimana, appunto, con Zelda. E soprattutto, non lo so, domani esce anche questo episodio sul feed di Ludico Forum. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Sono stati veramente in tanti, sia dal canale di Pixel Deb che dal canale di Dietrologia Videoludica. E insomma, ragazzi, forse avremmo dovuto considerarvi un po' di più, leggere un po' più la chat, però eravamo... Posso dire una cosa? Ti sei scordato di salutare Alex, però. Porca puttana, c'è ragione. Infatti sembrava anche a me, però dico... Tra l'altro, oltre a salutare Alex, allora Alex, voi sapete, Alex è un personaggio che sta con noi da sempre, ok? E ha fatto questo logo qui, che è il nuovo logo di Dietrologia Videoludica, che insomma è cambiato dopo tantissimo tempo. Alex ha fatto sempre gli asset per noi, sia dal punto di vista grafico che sonoro, anche in alcuni casi. Ha sempre collaborato, è un caposaldo, insomma, del Runtime Radio. Ha il suo podcast che si chiama Techno Pills, oppure a volte anche la mattina sul canale sempre YouTube di Runtime Radio ci sono i Morning Rant di Alex Raccuglia, dove lui dalla macchina parla e dice cose e insulta la gente che... Lui fa dei discorsi tipo parla di codice, di sviluppo, no, perché CC++.792 col glitch, tutto strozzo, fatto strozzo, vaffanculo, così, è bellissimo, va bene, grazie Alex. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie di esistere soprattutto. Ciao a tutti, grazie, buonanotte. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Grazie per averci seguito, per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.